estate giovane, vivi solo una volta. Le stelle brillano, un'onda che ti trasporta. E amico, seguici lungo la nostra rotta, perché hai bisogno di chi ti ascolta. La notte giovane, vivi solo una volta. Le stelle brillano, un'onda che ti trasporta. E amico, seguici lungo la nostra rotta, perché hai bisogno di chi ti ascolta. Ehi amico, vieni, vieni qui con noi. Prenditi sta birra e poi facciamo i playboy. Mi dicono due tizi imboccati tra di noi, con le canne in bocca, vestiti cavalli e sai. Mi offrono la merce, dicono questa è buona, ma erano gran tempo e la Maria mi devastava. Adesso sono un pazzo e me ne rendo conto, e questa merda di passato già mi fa da sfondo. Ritorno sul mio assetto, da fallita addetto, sputo ogni galletto, fregno senza rispetto. Vedo che la notte è piena di mignotte, nelle discoteche si fa la roba forte. Oggi è un uomo danneggiato dalla merda che ho subito. Vedo troie sedicenni che la madre ha mentito, per andare in discoteca a ballare tutti quanti. Ma non sapete i danni. Adesso guardo in faccia questa notte senza sole, questo lugubre rumore che mi penetra nel cuore. Guarda in alto, ho l'impressione che mi giri già la testa. Ma ormai sono alla festa e non dirò mai basta. La musica che appalla mi prende e mi bastona. Ho gli occhi già pesanti ma la droga era buona. Mentre adesso all'improvviso mi ricordo anche quel viso dello stronzo col sorriso che mi ha spinto dicendo che la notte è giovane, vivi solo una volta. Le stelle brillano, un'onda che ti trasporta. E amico, seguici lungo la nostra rotta, perché hai bisogno di chi ti ascolta. La notte giovane, vivi solo una volta. Le stelle brillano, un'onda che ti trasporta. E amico, seguici lungo la nostra rotta, perché hai bisogno di chi ti ascolta. Stampa ma del rischio, di questo me ne infischio. La merda non mi mischio, la coca te la lascio. E guarda sano straccio, fanculo tutto questo. Nei tempi ormai da adesso si muore troppo presto. Poi le troie ballano mentre le luci abbaiano. Quattro invece collassano mentre gli altri si drogano. E quelli che poi schiumano li prendono, li buttano per strada, dopo muoiono. Son pochi che si salvano. Riempimi il bicchiere, no non cominciare. Stasera ho troppa voglia di urlare e poi ballare. Ma non ti preoccupare, ce la faccio anche a guidare. Non lo vedi che sto bene, fidati che si può fare. Che sballo fa caldo, ho un testo un tarlo. E questa troia sì, poi ci succhiarlo. E vieni qui bambina che ci divertiamo. Sta coca la smaltiamo esattamente sotto seno. La notte giovane, vivi solo una volta. Le stelle brillano, un'onda che ti trasporta. E amico, seguici lungo la nostra rotta, perché hai bisogno di chi ti ascolta. La notte giovane, vivi solo una volta. Le stelle brillano, un'onda che ti trasporta. E amico, seguici lungo la nostra rotta, perché hai bisogno di chi ti ascolta. Ascolta, niente parlo, ascolta questo invito. E tira fuori il cash, mio caro dolce amico. Ti farcisci una narice mentre io qua me la sbrigo. Le tipiche parole di un tipico fallito. A prendere sta roba vi sentite tutti forti. Il piacere sono trenchi, voi siete dei morti. Scappate perché il diavolo è arrivato puntuale. La sua frase iniziale la spartisce dicendo che la notte è giovane, vivi solo una volta. Le stelle brillano, un'onda che ti trasporta. E amico, seguici lungo la nostra rotta, perché hai bisogno di chi ti ascolta. La notte è giovane, vivi solo una volta. Le stelle brillano, un'onda che ti trasporta. E amico, seguici lungo la nostra rotta, perché hai bisogno di chi ti ascolta. Riccardo, te la senti di guidare? Sì, tranquillo, ce la faccio. Sei sicuro? Sì, potevi anch'io. Tranquillo. Ok. Vai, mi fido. Sì, tranquillo, dai. Sì, prova piano, Riccardo. No, tranquillo, non ti preoccupare.